Milan, dai, veloce uscire dal bagno che sta iniziando la sigla. Uno, nessuno. Uno, nessuno, nessuno, 100.000. Uno, nessuno, 100.000. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Ci siamo, cari ascoltatori, ci siamo per una nuova puntata di Uno Nessuno 100 Milan. Siamo in diretta su Radio 24 fino alle 11 a concludere questa settimana. Con voi, con Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi in redazione, con la nostra Laura Faggine che è lì a fianco dell'Alpino, l'Alpino Peter in regia. E è venerdì. Io spero che Starbucks abbia mantenuto l'impegno suonando a casa calabresi portando il caffè che avevamo prenotato per quest'ora alle ore 9. Mario Calabresi, buongiorno, è arrivato. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Truffatore, truffatore. No, ma come? Truffatore. Ma come? È come il mazzo di fiori prenotato che non arriva e dopo sì, certo. Non è arrivato il caffè. Non è arrivato il caffè. No. Mannaggia ragazzi, ma guarda che è una cosa bene, incredibile. Buongiorno a tutti e buon venerdì. Scherzo, ovviamente Starbucks non ha sbagliato, noi non abbiamo prenotato nulla, insomma, e quindi Mario Calabresi è qui con noi lo stesso. Va bene, allora ci siamo, voi potete chiamarci all'800 24 00 24, potete scriverci via mail, via WhatsApp al 349 238 6666 e via mail a 100milan@radio24.it. Oggi vogliamo partire allargando un po' gli orizzonti con quello che succede anche nel mondo. Vai Alpino. Enthusiasm about the future. Allora, io devo fare una confessione, caro Mario, perché è una passione bizzarra. In radio mi prendono anche un po' in giro su questo, e non solo su questo, ma su questo in particolare. Perché ogni tanto vado su YouTube e guardo le centinaia di video che ci sono provenienti dagli Stati Uniti, intitolati, le si trovano così se uno va sul motore di ricerca. Am I free to go? Oppure am I being detained? E sono dei video in cui le persone normali sfidano i poliziotti ai posti di blocco, perché se non sono detenuti per qualche motivo particolare si rifiutano di dare le generalità, di parlare. Ne possiamo sentire anche uno. Am I being detained? I'm sorry? Am I being detained? For what? Am I being detained? Not that I know of. Am I under arrest? I don't believe so. So I'm free to go then. E durano minuti e minuti nei quali le persone fronteggiano i poliziotti in nome dei loro diritti costituzionali a non dare neanche le generalità. A volte finiscono malissimo, Mario, questi faccia a faccia, perché quando i poliziotti poi trovano lo spiraglio per fermare una persona c'è il contenimento fisico brutale. Ecco, fatto questa premessa, perché forse avete capito, vogliamo parlare di quello che è successo in America con l'uccisione di George Floyd. Se dico omicidio, come ha detto il sindaco di Minneapolis, tu sei d'accordo, Mario, vedendo il video, vedendo la dinamica di quello che è successo? Beh, quello che succede è terrificante come una persona immobilizzata e ammanettata, questo poliziotto continui a premergli sulla gola, il ginocchio con tutto il suo peso, con le persone che filmano, questo qui che dice non riesco più a respirare e poi smette di respirare, di parlare, di muoversi, e questo continua, cioè lì c'è proprio un'idea malata della legge. Guarda, ci sono due aspetti fondamentali. Uno, bisogna andare indietro a una cosa di sfondo. Perché negli Stati Uniti è così pericoloso, dico naturalmente tra virgolette, è così pericoloso essere fermati dalla polizia? Cioè sono tantissimi gli incidenti, anche gli incidenti. È pericolosissimo perché gli Stati Uniti, che hanno il 4% degli abitanti del pianeta, sono poco più di 300 milioni, hanno il 50% delle armi del pianeta. e fucili, pistole automatiche, fucili appunto mitragliatori, cioè l'armamentario americano non ha paragone con nessuno. E questo cosa vuol dire? Che ogni volta che un poliziotto ferma una persona ha paura che quella persona quando si avvicina gli spari con un mitragliatore, sì, con una pistola automatica, eccetera eccetera. Tanto che io mi ricordo che la prima volta che ho affittato un'automobile negli Stati Uniti, ero in Ohio, che è uno tra l'altro dei posti da questo punto di vista più problematici, ero in Ohio e la persona dell'agenzia mi ha detto: lei ha mai guidato in America? Io dico: no, è la prima volta. Allora lui mi ha detto: si ricordi bene, se viene fermato dalla polizia, sì, lei non apra la portiera, non si muova per prendere i documenti nel cruscotto, perché quello immagina che lei prenda una pistola nel cruscotto, lei rimanga immobile con le mani sul volante, immobile, sì, finché non ce l'ha accanto. Allora, il fatto che questo si preoccupasse di spiegarmi questo, che cosa significa? Che la paura che ha il poliziotto lo porta ad essere iperreattivo. Aggressivo, e, sì, e ci sono, certo, anche, non dimentichiamoci, come dire, che c'è anche un paese di altissima violenza con un numero di poliziotti morti nettamente superiore a quello degli altri paesi occidentali. No, ma guarda che l'atteggiamento che dici tu di tenere le mani attaccate al volante, se tu, in questi video infatti tutti gli americani sono in questo preparatissimi, sanno che non, esatto, devono immobili fare su questo. Nessuna detto mossa. Questo c'è un'idea malata e malsana e mai discussa seriamente, mai punita seriamente, che il poliziotto non debba solo immobilizzare una persona, ma la debba davvero, quando questa persona ha fatto, di solito tutte queste cose qua si giustificano, usano come giustificazione i poliziotti che fanno una violenza eccessiva in cui ci sono i morti, dicendo: aveva reagito. Il fatto che, sì, reagisci merita una punizione, e qui è il punto. Cioè, il poliziotto deve arrestare, deve mettere in deve fermare la persona che ha fatto un reato, ma non deve dargli una punizione. E invece c'è, sì, l'idea della punizione. Queste morti hanno questa idea della punizione. E il dato fondamentale però qual è? Che il 99% dei poliziotti che sono coinvolti in un atto di violenza eccessivo non vengono poi processati. Anche in, sì, questo caso sono stati, il sindaco li ha licenziati, ma in un altro posto sarebbero stati per prima cosa, guarda, fermati, arrestati, momento, messi sotto processo. Per il momento licenziati, ma chissà, forse verranno anche processati. Ma vogliamo sentire, non so se c'è anche il TAR del Lazio anche a Minneapolis, sì, non lo so o se si può fare appello al TAR del Lazio, però cosa è successo? In realtà è successo che ci sono stati degli scontri, ed è il terzo giorno di scontri, saccheggi brutali, e possiamo anche sentirne qualcosa, Pino. The building's beginning to collapse. The building is collapsing. The building just exploded. Oh my god! Video posted to social media shows flames engulfing an auto parts dealership and a half-built apartment complex in Minneapolis early on Thursday morning, where a second night of protests saw looting and vandalism. Protests erupted in the city after the arrest and death of 46-year-old George Floyd, which many saw as the latest example of police brutality against African American men. Ecco, tra l'altro questo audio è impressionante, quel I cannot breathe, cioè lui che per minuti e minuti implora con le persone a fianco che chiedono al poliziotto: ma adesso basta, non esagerate, e lui che dice: non respiro, continua a ripetere per minuti e minuti finché muore. Infatti, lì sul selciato, in questo caso devo dire, è una cosa evidente, qui non è questione di licenziamento, è questione che quello ha ammazzato una persona col suo comportamento, Sì. Questo avviene soprattutto nei confronti degli afroamericani, è innegabile. Tu hai vissuto in America, Mario, sì, c'è un atteggiamento diverso, no? Quando si, sì, tratta di fermare un nero. È così, nelle polemiche che ci sono altissime, anche in questi giorni si sottolinea come in moltissimi stati, prendiamo i controlli del lockdown. I controlli del lockdown sulle violazioni del lockdown, non le violazioni, ma i controlli sono stati fatti in un numero nettamente superiore su neri che su bianchi. Cioè l'idea parte dal fatto che siano da controllare in maniera diversa. Cioè, e questo è il punto. Poi, detto questo, teniamo però di sfondo anche la violenza che c'è in quel paese, in cui quindi tanti modi di comportarsi che per noi sarebbero normali li saltano, perché se tu hai 350 milioni di armi in circolazione è il Far West. Questo è un dato di fatto. Allora, adesso parleremo di altre cose legate alle vicende straniere. Mi aggancio a un messaggio anche un pochino polemico, evidentemente, l'ascoltatore che dice: stanno ammazzando più gente i cinesi a Hong Kong o i poliziotti in America? Ci arriviamo tra un attimo. Prima però voglio dare il buongiorno al primo ospite, perché però scusa, devo dire... posso dire una cosa? Non è che se uno cioè io amo l'America, mie due figlie sono nate negli Stati Uniti, ma non è che se io dico che l'America c'ha un problema di diritti in queste cose sono filo cinese, cioè, anzi visto che si ama la democrazia, amiamo la libertà, possiamo permetterci di criticare anche quello che non va in un paese. Se facessimo queste critiche in Cina non avremmo una trasmissione radiofonica, per esempio, no. E forse non avremmo neanche la libertà. Comunque, ieri che cosa è successo? È successo che c'è stata una frase nei confronti del ministro Azzolina che possiamo sentire in aula, detta dal senatore Giuseppe Moles, che è con noi, la faccio sentire a beneficio degli ascoltatori, che ha suscitato un dibattito e qualche anche insomma richiamo all'ordine. Sentiamola. E le ricordo, signor Ministro, che la scuola ha bisogno di credibilità, serietà, credibilità. E la credibilità è come la verginità, è facile da perdere, difficile da mantenere, ma impossibile da recuperare, signor Ministro. Grazie. Allora, senatore Giuseppe Moles, buongiorno, Forza Italia, buongiorno, eccoci a lei, qua. Buongiorno. Allora, lei poi ha chiesto, credo, scusa, ha sentito anche il ministro, si sono sentiti. Questa frase rivolta a una donna, evidentemente, è una frase che stona. Lei l'avrebbe detta anche se ci fosse stato di fronte un ministro uomo? Io la ringrazio per aver fatto ascoltare la frase, perché il tutto nasce da una strumentalizzazione successiva fatta da altri. Io certamente ho parlato anche con la ministra, perché nel momento in cui ho ricevuto una serie di comunicati dei 5 Stelle che tra l'altro virgolettando aggiungevano alla parola verginità il termine aggettivo femminile, che io, come lei ha sentito, non ho mai pronunciato. Non l'ho detto. E devo dire che la ministra con cui ho parlato aveva capito perfettamente il senso della mia frase. Io mi sono riferito alla credibilità della scuola, non ho fatto riferimenti sessuali, sessisti, non mi sono riferito al ministro stesso e così via. Aggiungo che io la stessa frase l'ho usata anche in un'altra occasione, presente il presidente del Consiglio Conte. Quindi, sì, diciamo, lei l'ha detto come frase, come principio, come modo di dire. Ecco, modo la di credibilità dire. Della scuola è persa totalmente, non è recuperabile. Questo è come quando si perde la verginità. Ma devo dire che è un periodo un po' sensibile, ci sono le persone sotto scorta, cominciare dalla ministra Azzolina, allora lei capisce, senatore, tutta che la mia solidarietà al ministro Azzolina per le minacce che ha avuto e per gli insulti che ha avuto. Ripeto, non è nel mio stile, non era mia intenzione fare riferimenti sessuali al ministro o altro. Del resto, ripeto, ho apprezzato molto, il ministro stesso aveva capito perfettamente il senso della frase, perché in aula... qualcuno ha detto una frase da caserma, non so, Mario Calabresi, tu ne pensi? No, io buongiorno senatore. Buongiorno, un piacere sentirla dopo tanto tempo. Devo ammettere che io conosco il senatore da quando eravamo, cioè quando eravamo ragazzi, lui faceva l'assistente parlamentare ad Antonio Martino, all'allora ministro Antonio Martino. Io ero un giovane giornalista dell'ANSA e quindi ci incontravamo mica nel corridoio di Montecitorio. Cioè, sembra che stiamo parlando due anziani. No? Il problema è che sono passati 25 anni. Vabbè, diversamente giovani. No, voglio chiedere, allora diciamo così, che secondo me questa frase, anch'io non vedo un legame tra questa frase e il fatto che il ministro sia sotto scorta e tutto il resto. Devo dire che di questi tempi, che ormai il discorso politico è sezionato e c'è il terrore per le parole, forse la frase è un po' improvvida. E allora volevo chiedere, ma secondo lei, a questo punto, anche se l'ha detta con Conte, io questa frase la metterei via e non la userei più viste le polemiche. E ci sono due cose che volevo dire. Una è sulla questione, e provocatoriamente le volevo chiedere, ma secondo lei Antonio Martino l'avrebbe mai detta una frase, questa frase? Avrebbe mai usato una figura retorica come questa? Io credo forse sì, magari non in questo contesto. Io ho apprezzato molto il ministro Azzolina perché aveva capito perfettamente il contesto. Mi è dispiaciuto invece ricevere accuse sessiste. Io la ringrazio per aver ricordato il mio modo di essere, ecco, è il mio stile, ma certamente non la userò più, anche perché ormai è una frase che mi farà ricordare per qualche giorno come un sessista, cosa che sinceramente è un'offesa che io assolutamente non accetto. Nello stesso tempo è molto particolare il momento, senz'altro, è molto particolare la tensione politica. Io ripeto, in aula non era successo assolutamente nulla, non c'è stata nessuna reazione, non c'è stato. E poi è iniziato un tam-tam partito da comunicati dei 5 Stelle, che ha pian piano creato un caso che in realtà non esiste. Che non c'era. Devo anche ammettere, io non sono un frequentatore eccessivo dei social, mi hanno segnalato che per esempio su un social inizialmente si è scatenato un putiferio con offese e quant'altro, poi pian piano però alcuni utenti di questo social hanno cominciato, forse perché hanno potuto ascoltare le mie parole, forse perché si sono informati, hanno cominciato a fare delle distinzioni. Il problema è che, ha ragione il dottor Calabresi, ci sono dei momenti in cui c'è una sorta di polizia del linguaggio oppure una strumentalizzazione del linguaggio. Forse con il senno di poi è molto meglio dire delle frasi fatte, delle banalità. Sì. Ma infatti io la volevo sempre posso aggiungere così, una cosa, sì. Alessandro. Però detto questo, siccome poi ieri è diventata della scuola, poi non si è più parlato, ma si è parlato solidarietà al ministro, vergogna per gli attacchi, eccetera, eccetera. Allora, io vorrei anche che uno tenesse la libertà, che adesso, tolta la frase del senatore Moles, il problema poi nel merito, secondo me, ma qui la libertà di critica al ministro è anche una cosa, il fatto che di sottolineare che se uno facesse il microfono aperto con gli insegnanti oggi sentirebbe sul ministro cose irripetibili, perché la scuola è sfinita dal fatto che in una fase così difficile è la cosa meno gestita che ci sia, onestamente la meno gestita che ci sia. Infatti io direi così, senatore, il caso è chiuso, ma per me appunto non c'era neanche un caso, anch'io non ho colto minimamente, ma non adesso si dirà perché sei uomo, no, non ho colto minimamente un riferimento sessista in queste parole. Diciamo che ci sono mille similitudini, ne inventi un'altra, ecco, per la prossima volta. E, allora mettiamola così, il cardinale Sunes, chi accende le luci al buio si aspetti le zanzare. Va bene, e qui alla zanzara di Crociani si saranno subito arrabbiati, ecco bene come la tocca la sbaglia. Va bene, noi la ringraziamo per essere stato qui, senatore di Forza Italia Giuseppe Moles. Un complimento a Crociani e alla zanzara. Ah, va bene, certo, ecco, grazie davvero. Mentre torniamo sulle altre questioni. Allora Mario, tu so che oggi nella newsletter mariocalabresi.it o .com, se volete la sua newsletter, hai una storia che intercetta in qualche modo un altro argomento molto molto caldo, le relazioni Stati Uniti-Cina con dentro Hong Kong. Hai visto che adesso Trump vuole cacciare gli studenti cinesi dalle università, le università dicono ma no, ma le rette cinesi, degli studenti cinesi ci servono per sopravvivere. Lui non è molto interessato a questi tipi di calcoli, bada più alla sostanza. Appunto, da questo punto di vista, secondo me, che Trump alzi la voce con la Cina è sacrosanto. È sacrosanto per due motivi: perché i cinesi stanno approfittando di questo momento in cui il mondo è concentrato su altro per portare avanti in maniera molto efficace la loro agenda, e nella loro agenda c'è mettere sotto controllo Hong Kong completamente, elevare quello statuto speciale che era stato poi concordato con gli inglesi quando l'ex colonia britannica nel 97 diventa appunto, passa sotto la Cina, e quindi diminuire le libertà e le possibilità, per esempio, di protesta, di parola, di critica, eccetera, eccetera. E io credo che l'Europa di fronte a questo sia troppo silente. Fa bene Trump a dire no, però questo non può passare in questo modo. Guarda, tu dicevi la mia, vedete che era trampiano, vedete che era trampiano, aspetta, no, avevo detto che eri trampiano, te l'ho detto una volta e già la seconda volta hai detto fa bene Trump, avete sentito, cari ascoltatori? Io non amo Trump, però non è che siccome se Trump fa una cosa giusta allora noi dobbiamo pensare che è giusta quella sbagliata. Ma certo. Per darti un'idea di come i cinesi perseguono scientificamente un'agenda, in questo periodo tutti gli 8.000, cioè la catena sia dell'Himalaya che del Karakorum, sono chiusi. Non ci sono scalatori, non ci sono alpinisti, non c'è nulla, perché ci sono il lockdown, c'è stato in Cina, c'è in Nepal e c'è in Pakistan, e quindi non si va sulle montagne più alte del mondo, con tutte delle ricadute, perché quelle popolazioni intorno nelle valli vivono molto di trekking, di turismo, e in questo momento sono la disperazione. E c'è un dato però: i cinesi hanno autorizzato una sola spedizione governativa sulla parete cinese, sul lato cinese. E che cosa hanno fatto? Sono saliti sopra, hanno misurato l'Everest con una serie di tecniche, e erano d'accordo di farlo, c'era stato un accordo comune a novembre di farlo insieme ai nepalesi, di dare insieme la notizia, perché anche i nepalesi lo stavano misurando, e invece loro hanno annunciato da soli che l'Everest è più basso di 4 metri di quanto sostengono i nepalesi e gli inglesi, perché lo fanno insieme agli inglesi. Ma non solo, al campo base, sopra il campo base a 5.500 metri, che cosa hanno messo? Hanno costruito un'antenna per portare il 5G sotto l'Everest. Eccolo là. Il complottone del 5G. Adesso tu con questa notizia che dai nella chat, nella tua newsletter, hai alimentato ulteriormente, vedete cosa hanno fatto i cinesi dall'Everest, vogliono conquistare il mondo con il 5G, perché il coronavirus si sa è legato al 5G. Io ci vedo, questo va bene, queste sono follie, ma qui leggi quella idea di dire: noi non solo andiamo lì, decidiamo noi qual è la misura più della montagna più alta del mondo, ma mettiamo anche l'antenna del 5G e la montagna diventa, come dire, con le onde, col telefono, la controlliamo noi. Sono gesti simbolici, ma sono gesti fortissimi. Fanno l'agenda, ma guarda, infatti oggi hanno un'agenda. Su Repubblica oggi George Soros, che peraltro invece è considerato lui stesso un pericolo, George Soros dice: attenzione Unione Europea, guardate che la Cina è un pericolo, perché hanno la loro agenda, come dici tu, la perseguono senza colpo ferire, e se noi stiamo qui inerti e silenti, va bene, subiremo, come dire, l'imposizione di questa agenda economica e politica, e questo è. Caro Mario, noi ci fermiamo qui per il momento e ti voglio salutare, ma davvero non è arrivato il caffè ancora di Starbucks? No, purtroppo no. È incredibile questa cosa. È incredibile. Farò una rimostranza alla redazione. Dovevo organizzare tutto Lorenzo Nespoli, come al solito non ha fatto nulla. Vabbè. Ti mando un grosso abbraccio. MarioCalabresi.it è il sito, c'è anche la puntata del podcast che va avanti sulla storia di Andy Rocchelli, se volete seguirlo. Ci sentiamo presto, ciao Mario. Andiamo un attimo in pubblicità, poi arriva Leonardo Manera e tanti altri ospiti, parliamo anche di questa disfida nord-sud, caliamoci un po' nelle questioni italiane. Uno, nessuno, 100 Milan. Il fatto che il senatore debba spiegare la ragione per cui ha usato quelle parole fanno capire che è inopportuno. Comunque il ruolo istituzionale dovrebbe far capire a certe persone che non è il caso di usare esempi di questo genere. Milan, ma che dici? Quella sulla verginità è una bella metafora. E siccome proprio non siamo sessisti e non ci sono differenze tra uomo e donna, a chiunque venga diretta non fa niente, è una frase comunque. Beh, ragazzi, se non viene processato e condannato a svariati anni di carcere questo poliziotto, chi deve venire processato? Cioè, questo si è accanito sul nemico già neutralizzato a terra, neutralizzato. E dopo che ha smesso di parlare, di respirare, è rimasto lì col suo ginocchio per altri tre interminabili minuti. Sì, sì, il video è brutale, non so se l'avete visto, il video dell'arresto e io devo dire l'uccisione di George Floyd, non ci sono altri termini. Già poi, ecco, ascoltatore, non direi neanche il nemico, era un cittadino che era stato fermato e aveva le manette. Allora, c'è Leonardo Manera, eccolo qua, Leonardone, buongiorno. Anche oggi? Hai visto che sono presente anche oggi? Tu speravi che così che mi defilassi e invece ligio al dovere? Perché? No, non lo so. Ma perché ti presenti con questo accanimento, con questa stizza? Ma io sono felicissimo, ti presenti così stizzoso. Me l'ha detto. Oh Leo, per fortuna che ci sei, pensavo che il bolscevico ti avesse fatto fuori con il Novichok per le 20 euro. Esattamente, ho parlato col direttore Tamburini, mi ha detto che hai sollevato delle rimostranze nei miei confronti e questo un po' mi dispiace. Nervo Manera, oggi ho appena letto un'intervista a Paolo Canè, stupendo, te lo ricordavi? Il mitico tennista soprannominato Canè Manera, sai che era stizzoso, sarà, nervoso. Non lo so, sarà che stanotte ha avuto dei risvegli, non ha dormito bene, quindi sarà questo. Così. Quindi ho fatto sei sogni anche. Sì. Sei sogni? E te li ricordi tutti? No, quanti? Ho fatto dei quanti sogni amari? Di vario tipo, mi sono risvegliato, quindi poi non ho avuto... Una notte amara. Una notte amara, perché sarebbe bello poter dormire serenamente, addormentarsi verso le 11:30 e calare, entrare nella fase REM direttamente a 00:30 e poi dormire senza risvegli invece fino alle 7:30. Invece mi sono risvegliato alle 4:30, ho avuto un piccolo fino alle 5 non mi sono riaddormentato, alle 5:30 poi ho dormito un'altra mezz'ora facendo sogni che non erano comunque rilassanti e la mattina poi mi sono svegliato con un senso di inadeguatezza anche verso la vita, quindi non sono pronto ad affrontare questa nuova giornata. Amici ascoltatori, allegria! Va bene, dai, sono le 9:36 minuti. Allora, sono passate le tensioni da guerra civile, titolava qualche giornale ieri su Il Giornale, nello specifico tra nord e sud, e possiamo andare in Sardegna e non possiamo andare in Sardegna. Io lo dico per il terzo giorno, amici lombardi, ma dove andiamo? Dovunque ci guarderanno con l'occhio storto e ci aspetteranno al varco, anche se io, ripeto, ho già il mio rifugio, perché dico che sono svizzero, vengo da Lugano, tanto sono biondo e quindi non c'è nessun problema. Ma vogliamo chiedere tutto a Pino Aprile, giornalista, scrittore, ha scritto tantissimi libri, a Terroni, Il Sud Puzza, Giù al Sud. Pino Aprile, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, Pino Aprile, molti ci hanno detto questo, se fosse stato il contrario, cioè se ci fosse, che ne so, la Campania nella situazione della Lombardia, la Sicilia, la Sardegna, al nord avrebbero alzato le barricate, ma insomma, questa Italia è una quando ci fa comodo o non è una? No, non è mai stata una. L'Italia, ma insomma, è un fatto più che scontato, cioè basta vedere, non c'è neppure da spiegarlo. Prendiamo uno che viene da Marte e gli facciamo prendere un treno al nord, poi lo portiamo al sud e gli facciamo prendere un treno dove c'è il treno, perché al sud nel 2020 ci sono città, compreso capoluoghi di regione, di provincia, esatto, dove non è mai arrivato il treno dal 1861. Poi portiamo il marziano in Francia, in Germania, scegliete voi il posto, gli facciamo prendere un treno al nord, al sud, a est, a ovest. Quello non vi sa dire se è al nord, al sud, a est, a ovest. In Italia invece è facile riconoscerlo. il posto, cioè tu fai 750 km in due ore e mezzo, tre, e sono stati investiti, io dico buttati, uno scempio, altri 1.800 milioni per fare un freccia 1000 per guadagnare sulla carta un quarto d'ora sulla linea più veloce e meglio servita d'Italia. E poi c'hai per fare 300 km in Sicilia, dove hanno ancora la fortuna di avercelo un treno, hai un treno solo che parte alle 4 del mattino e arriva a destinazione dopo 14 ore e mezzo e 6 cambi. Insomma, le disparità ci sono, ma questa battaglia, perché lei un po' di battaglia la vede, cioè nel senso, i lombardi se vanno in vacanza come verranno visti quest'estate al sud? Cioè, ma capisce non un po', perché lombardi, come persone irresponsabili, perché? Come sono stati descritti, né più né meno. In quanto lombardo io sono responsabile di che cosa? Irresponsabili in che senso? Prova a rivedere cosa è stato scritto di quell'esodo al contrario che un giornale spagnolo e uno americano del paese, il Los Angeles Times, hanno descritto come una svolta storica epocale che dimostra come l'Italia si è ribaltata. Quello di quelli che sono fuggiti da nord, esatto, nel periodo, cioè, quelli che nel sono periodo... stati fatti, sì, fuggire, sì. Alessandro, perché se tu hai una zona altamente infetta, la blindi, se la vuoi blindare, se non la vuoi blindare fai in modo che avvisi che forse la blindi, se ne vanno decine di migliaia di persone e si portano al sud ad alleggerire la pressione dell'epidemia nelle zone dove infuriando. Cioè questa è la lettura tua, è questa, hanno cominciato a prospettare, guardate che chiudiamo, così facciamo andare via un po' di persone e ci liberiamo un po' di pressione sugli ospedali. Quando sono arrivati gli infetti al sud, i presidenti delle regioni del sud, che sono di partiti diversi dalla Lega al PD, hanno immediatamente blindato i paesi dove c'era un infetto. La Lombardia non ha blindato, e l'Alzano Lombardo e sta lì a spiegare come e perché. Perché c'erano molti più casi, cioè girava da a maggior chiaro, ragione, ottobre, e quindi novembre, blindi tutte le. Cioè, cos'è stato detto ai sanitari di Alzano Lombardo? Quando, dell'ospedale, quando si sono riuniti per aver scoperto il Covid, la telefonata del dirigente del welfare è stata: riaprite l'ospedale dopo tre ore. Questa tensione, come dire, cari lombardi, dovevate tenervi tutto il problema lì, invece di dovevate affrontare il problema, cioè. Milan, quando la Lombardia e il nord in genere non ha problemi, ha predicato fino a prima del Covid l'Italia a due velocità. Perché dovremmo aspettare il sud quando noi possiamo già partire, possiamo andare più veloci, fino ad arrivare a quello scempio, a quella tentata rapina dell'autonomia differenziata, perché quello è un saccheggio. Beh, ma di fatto non è mai successo, però. Perché noi da qui, sì. No, ci sono alcuni partiti che magari l'hanno proposta, ma in generale è una cosa che non è mai avvenuta, quindi alla fine si è sempre ragionato in un'ottica più nazionale alla fine. No, non è avvenuta perché non ci sono riusciti. Dice, gli è fatto da sud, gli è stata fatta mancare la maggioranza in Senato ed è stato comunicato al governo. Tu puoi pure portarla. Senti però la critica, c'è una critica molto forte. Ieri una mia cara amica mi ha detto: e vabbè, e allora cosa dovremmo fare noi lombardi, di tantissimi purtroppo che stanno male nel sud e che si vengono a curare nei cosiddetti centri di eccellenza della sanità del nord, non solo Lombardia. Dovremmo dire: curati nella tua regione, vai nell'ospedale della tua regione. Non è la stessa cosa. Questo è un sillogismo. Un conto è che io malato mi sposto e non infettivo, mi sposto e mi faccio curare dove voglio. Un conto è che tu sai che c'è una zona, cioè hanno blindato Seul. Immaginate Wuhan, immaginate che da Seul, da Wuhan, la gente si muova come vuole e va nelle regioni indenni. In Cina gli sparavano. Sì, questo è vero. Chiaro, la Cina, fortunatamente siamo una democrazia, chiaro, rispetto alla Cina. Ma voglio dire, come hai blindato quando hai voluto blindare? Perché non l'hai fatto prima? Perché hai permesso... Ma è chiaro, io titolo così, ma è una semplificazione. Pino Aprile dice, cioè, la Lombardia doveva non doveva permettere alle persone di uscire, doveva gestirsi il problema, che è un po' come dire, cioè, avete permesso di infettare tutta l'Italia. Con la complicità del governo, perché ci sono le responsabilità locali e quelle nazionali. Perché quando i presidenti del Sud hanno blindato i paesi, lo hanno fatto il primo giorno, non hanno chiesto governo posso fare, rimpallandosi la decisione in modo da lasciare con il cerino acceso di fronte a Confindustria quello che diceva chiudiamo, e così abbiamo visto cosa è successo. Al sud non hanno chiesto, hanno blindato e risolto. Hanno blindato. Quindi se adesso il lombardo, il cittadino dice io voglio andare in vacanza, maggior ragione Pino Aprile dice oh, non rompere le scatole. Cioè, non è questo, vieni, ma io trovo assolutamente naturale. Per esempio dal sud sono arrivati dalle zone infette almeno 200.000 persone. Tutti i casi di Covid al sud sono venuti dal nord. E il sud l'ha affrontato e zitto. Ma vi faccio un esempio, lasciamo nord-sud. Lombardia, Veneto. Il Veneto ha affrontato all'inizio esattamente insieme alla Lombardia, con la virulenza della Lombardia, la stessa epidemia. Ma il Veneto mi pare a 8 infetti, almeno 2 giorni fa, oggi non mi ricordo qual è l'ultimo dato. Lombardia di più. La Lombardia è 593. L'ultimo dato e il Veneto è a 12, tutto però il la questione è a 11. La questione Pino Aprile è che da eventuali, non lo so, si accerteranno nel caso responsabilità politiche eccetera, poi adesso ricade tutto su popolazione che viene vista con l'occhio, ma è un po' così, molti dicono ai lombardi questa è una brutta operazione. Perché tutte le critiche sono sulla dirigenza della Lombardia. Il voler spostare ce l'avete con i lombardi? No, ce l'abbiamo con la pessima, disastrosa e, se la magistratura lo accerterà, criminale gestione di una epidemia che ha fatto 16.000 morti. In più, con un sentimento che viene spostato su tutti i lombardi, ma che diavolo dite? Trovatemi un italiano che non abbia un parente in Lombardia. Io ho decine di miei parenti in Lombardia, compreso mia figlia. Ma cosa dite? Certo. E la gestione, tant'è che... rispondimi a una domanda. Sì, ma magari la gestione, adesso io non lo so, dopo sembra che difendo, io non lo so, ci sono stati molti più casi, è stata colpita molto di più la Lombardia, perché è un paese dove ci si sposta, molti sono andati in Cina, sono tornati, ci sono scambi commerciali, quindi ha colpito di più qui. Ci saranno più imprenditori dalla Lombardia che vanno in Cina che dalla Campania, immagino, per esempio, no? Sì, ci saranno però, più interscambi. Proprio all'inizio dell'epidemia c'è la storia di non so se era un imprenditore o un manager, non ricordo ora, che arrivò dalla Cina, proprio da Wuhan se non sbaglio, a Malpensa, nessuno lo ha mai controllato, ha girato come voleva, nessuno gli ha chiesto di fare la quarantena, poi è ripartito, è tornato in Cina e lì lo hanno messo in quarantena. La domanda è se fosse arrivato invece a Napoli ottobre, sapevano controllare tutto? No, chiedo, cioè nel senso... A Napoli, come abbiamo visto, De Luca appena ha beccato il primo infetto ad Ariano Irpino, il primo giorno, ha chiuso la città. Anche qui il primo ufficialmente è stato a Codogno, poi abbiamo scoperto che ce n'erano altri molto so. Però no, il primo ufficiale era a Codogno. Sì, no, il primo in Campania, quando è arrivato dal nord, il primo infetto, coperto in Campania da Ariano Irpino, è stata chiusa la città. Ma guarda, ti faccio solo un esempio. Io vedo, io mi stupisco dello stupore di alcuni nostri colleghi e non solo, politici lombardi. Dici, ma cos'è questo sentimento anti-lombardo? A parte che non estenderlo a tutta la popolazione è tu dici estenderlo contro i dirigenti. Ti faccio presente che ancora oggi i napoletani vengono offesi perché per offenderli li chiamano colerosi. L'epidemia di colera del 1973 arrivò in Europa, non solo a Napoli, con una partita di cozze infette dalla Tunisia. A Napoli fu debellata in 2 mesi, a Barcellona è durata 2 anni. Ancora oggi i napoletani con 24 morti vengono insultati, chiamati colerosi negli stadi. Da poche, esatto, stavo dicendo, da poche persone squilibrate negli stadi. Pino, sono condannata per razzismo, Sì. Ed è il segretario del maggiore partito italiano ed è stato vicepresidente del Consiglio. Ti riferisci a Salvini. Allora, ho sforato già 5 minuti, ma ci risentiamo, anche perché so che presto uscirà anche un altro tuo libro e ci risentiremo, dai, Pino Aprile. Intanto grazie, con un po' di ritardo, mi scuso, devo andare al traffico e poi siamo qui. Uno, nessuno, 100 Milan. Salino, vieni da me, dai, Siracusa, Plemirio, il paradiso, ti aspetto, ti tengo giù 2 mesi, stiamo insieme, poi te ne ritorni. Vai in Monte Rosa, ma prima stiamo insieme. Looking like we just fell down right from the sky. Signor Milan, un attimo di attenzione perché oggi è l'anniversario della Fu Caldaia di Leo Manera. È una cosa un po' maestra. Caldaia è rimasta impressa la questione della mia caldaia, Una settimana fa, sì, più il conto della caldaia. Salutiamo Cristiano, installatore di caldaia, che era molto contento mentre mi cambiava la pompa. Forse è per questo che ti sei svegliato con la stizza oggi. Ti ricordavi, è venerdì, ne succederà qualcos'altro, succederà. Venerdì scorso la caldaia, così di colpo. No, via 340 non, già per il momento è ancora niente. E la giornata oggi è lunga. La giornata è lunga. Molto. Dai. Adesso tu so che vorresti una base allegra. Oh, dai, contrastiamo. Ma sì, mettiamo una bella base allegra. Dai, su. Allora, oggi nella seconda parte ci occuperemo della vicenda di Silvia e Alessandro, due clochard di Como, che nonostante tutte le difficoltà del caso e anche nonostante alcuni problemi di salute hanno deciso di sposarsi. Questa storia mi ha subito ricordato una canzone di Enzo Iannacci, El Purtai Scardo Tennis, cioè la storia appunto di un senza tetto che sulla strada per andare all'Idroscalo qui a Milano vede una donna bianca e rossa che pareva il tricolore, dice il testo. Era lì e l'amore lo colpì. E anche lui, nonostante non avesse fissa dimora, nonostante non avesse nulla, nonostante una vita così evidentemente complicata, riesce a provare quel sentimento così forte che forse è l'unico che ci dà il senso completo della vita. E così nelle nostre vite, da quando gli ormoni maschili e femminili cominciano a sferzare il nostro cuoricino e anche altre parti del corpo, l'idea o la speranza di trovare l'anima gemella diventa una specie di chiodo fisso e spesso ci si immola a quell'ideale, molte volte inesistente. Però ci si prova ed è giusto provarci anche con parecchi sacrifici. Cercano tutti l'amore vero con la E maiuscola, dove E sta per eterno. L'amore che dura per sempre, finché un animatore di un villaggio, un collega d'ufficio, una cubista non li separi. Per trovarlo, quell'amore si fa di tutto. Prima cosa, si cerca di rendersi presentabili. L'uomo va in palestra oppure mette la panciera. Una volta c'era quella del dottor Gibot. La donna va in palestra anche lei per tonificarsi e magari indossa un bel reggiseno imbottito. Come dire che l'amore per sempre, che dovrebbe basarsi su affinità elettive, passa invece principalmente dalle maniglie dell'amore e dal corpo più o meno rassodato da qualche personal trainer. Quindi si parte già col piede sbagliato. Il secondo inghippo sta nei primi appuntamenti, dove si cerca di dare sempre una immagine edulcorata di sé. quando si esce a cena le prime volte, invece di rappresentarsi per come si è realmente, si cerca sempre di fingersi più interessanti di quello che si è. L'uomo cerca di non parlare di calcio e di altre donne che in passato hanno farcito il suo immaginario erotico. La donna cerca di non dare l'impressione di essere sempre a dieta, perciò nella solita insalata ipocalorica si fa aggiungere anche una mozzarellina. Poi c'è la terza fase, quella in cui, uscendo dal ristorante e magari passeggiando al chiaro di luna in queste belle serate primaverili, ognuno si confessa un po' all'altro, svelando i propri sogni, le proprie speranze. «Vorrei occuparmi seriamente di volontariato», dice lei, ripensando alla mozzarellina che forse le ha rovinato la dieta. «Anch'io, almeno di domenica, vorrei fare qualcosa di utile per gli altri», dice lui, senza considerare che però così facendo dovrebbe rinunciare, per esempio, alle partite della Pro Sesto, unico vero interesse della vita. Se entrambi hanno mentito bene, sotto casa si può arrivare perfino al primo bacio ed eventualmente fino all'altare, partendo però da presupposti assai poco sani. E allora hanno fatto bene con totale onestà a sposarsi due clochard di Como, Silvia e Alessandro, che non avendo niente da fingere, hanno deciso di coronare il loro sogno d'amore che probabilmente, quello sì, durerà per sempre, perché non parte da una rappresentazione parateatrale, ma dalla conoscenza della verità, l'unica che di solito può garantire l'amore per sempre, finché dura. Bravo Leo, però non ho capito cos'hai contro le partite della Pro Sesto. Non ho capito. Perché so bene che insomma, quello è il tuo interesse principale. No, comunque hai ragione. Nella seconda ora di Uno Nessuno 100.000 subito dopo il giornale radio tenteremo questo collegamento con Silvia e Alessandro, due clochard, ma poi francesi, due barboni, non c'è niente di male, no? Due barboni, a dire due senza tetto, se si vuole essere più edulcorati, più radicali chic alla Fusconi, così, senza tetto, che hanno deciso di sposarsi. Tenteremo, perché chiameremo uno dei City Angels, sai, questa associazione che conosci anche molto bene. Sì, io sono anche collaboro io con i City Angels. Esatto, che li hanno aiutati, li aiutano, perché non è che giustamente un barbone ha un cellulare, quindi tenteremo con un collegamento, vedremo se riusciremo a sentire la loro voce come una storia magnifica che cercheremo di raccontare. Hai qualcosa da dire contro Miriam Lucchetti oggi? Perché è strano, non hai detto nulla sulla tecnica. No, Lucchetti, mi hanno chiesto. Mi è arrivato un messaggio, adesso non ricordo da chi, di specificare bene il metodo Lucchetti, di ribadire. Ieri mi è arrivato un messaggio, la tecnica Lucchetti, adesso dovrò recuperare quel messaggio che mi è arrivato ieri. Sì. Comunque, vabbè, vedo, ma intanto spiega la tecnica. La tecnica è quella di fingersi molto occupati, girando da un ufficio all'altro con dei fogli in mano, sbuffando, lamentandosi per fingere di essere già pieni di lavoro in modo da non averne nemmeno uno da svolgere. Questa è la tecnica Lucchetti. Cioè fingersi indaffarati per scampare così del lavoro. Tecnica Lucchetti. Esattamente. E tutti voi, se vi girate, avrete dei colleghi o delle colleghe che applicano questa tecnica in maniera straordinaria. Va bene, andiamo al giornale radio, poi rientriamo con noi. Ciao, sono Barbara da Nuoro. I love my radio. Ciao, sono Anna da Cremona. I love my radio. Ciao, sono Rosaria da Napoli. I love my radio. Gli italiani amano la radio. La partecipazione del pubblico ai programmi della radio è aumentata di oltre il 27%. Il tempo speso in ascolto digitale della radio è aumentato del 61%. Ed è l'amica sempre vicina a 37 milioni di persone. Con dei numeri così, la radio è il grande amore degli italiani. Anche di chi investe in pubblicità. I love Italia. I love my radio. Uno, nessuno, 100 Milan. Hi, my name is Stereo Mike. Are you gonna allow in if you want to answer a couple of questions? E adesso vi torneremo a chiamarci Terroni, Polentoni, Polentoni, Terroni, andare alla foce del Po, quelle cose lì. E che scatole, che due scatole, come 30 anni fa. It's a beautiful day. Questo ospite fa venire voglia di secessione. Milan, digli che quelli che sono tornati in meridione erano meridionali. Milan, fatene una ragione. La gestione del coronavirus in Lombardia è indifendibile. indifendibile. Ma vorrei dire due cose. Beh, all'ascoltatore che dice quelli che sono tornati al sud erano meridionali, vince il Nobel dell'ovvietà catalano. Beh, è ovvio, ma questo non lo mette in dubbio neanche Pino Aprile. Pino Aprile mette in dubbio il fatto che non bisognava farli tornare, cioè bisognava blindare tutto. È ovvio che chi è tornato al sud fosse del sud. Riguardo invece all'ultimo, è indifendibile. Io non devo difendere nessuno, niente nessuno, e se permettete, non so da dove l'ascoltatore ci manda un messaggio, ma se abbiamo un problema in Lombardia, sono un po' più preoccupato io che sto in Lombardia, come Leonardo Manera, dell'ascoltatore che sta magari nelle Marche, in Umbria, in Toscana o non lo so. Quindi non devo difendere e devo anzi preoccuparmi. Siamo più preoccupati noi che siamo in Lombardia di quelli che stanno in Sardegna, dove non ci sono casi come me. O no? Non lo so, io ho l'impressione che No, io ho l'impressione che nonostante si dica che la responsabilità, eccetera, anche Pino Aprile diceva prima che puntava il dito solo sulla gestione politica, però alla fine quello che ne scaturisce tra le persone è sempre questo nord, l'astio. Sud, voi settentrionali, voi meridionali, e questo alla fine risulta sempre spiacevole, perché è la solita storia che si ripete da sempre, insomma, sì, forse sarebbe il caso di superare. Sì, quando si è tornati a 30 anni fa, un po' sì, è vero, come ha detto l'ascoltatore, un po' è triste, ma venite a infettarci, chissà quante volte quest'estate si sentirà questa frase. Un po' come la diversamente giovane, ci volete ammazzare tutti, mentre stavo bevendo a un tavolino l'aperitivo, ci volete ammazzare tutti, ma veramente io no, non la voglio ammazzare, signore. Adesso poi. Volevi far solo la movida. Io invece sto mangiando delle ciliegie a casa mia, vedi che si può anche quanto stare a casa. Quanto le hai pagate? Tanto, due cestini di ciliegie devo pagare circa 8 euro, una cosa così. Lo so, io sono andato al mercato comunale qui vicino, le ciliegie erano a 16 euro al chilo. Sono tanti i 16 euro, ragazzi, però questo è. Marco da Torino, buongiorno Marco. Piacere nostro, vai. Alla vostra collaboratrice, visto che il signor Aprile non vuole quelli del nord giù, ma anche io posso anche capire la questione, però io volevo mettere sotto un aspetto. No, non vuole, non è quelli del nord, non voleva che uscissero dalla Lombardia, sì, ma sono gente del sud. Va benissimo, ma però per esempio quest'estate per le vacanze fa una scelta diversa, non si va al sud. Poi voglio vedere gli imprenditori del sud come saranno contenti, visto che la mettono su questo piano. Però anche lei, Marco, la mette un po' sulla rissa, diciamo, la rissa ideale. Ma non è la rissa, è che il discorso è che andrebbe fatto in modo un po' più ragionevole, sia da una parte che dall'altra. Io posso capire che le persone giù al sud, che hanno avuto pochissimi contagi, tengano alla loro salute, ma è perfettamente ragionevole la questione. Allora, o si mette in condizione di farsi fare tutti i tamponi, arrivare a una specie di passaporto sanitario, in modo che si possa dimostrare che poi ha una valenza molto ridotta, perché bisogna verificarlo più volte, esatto. Sì, sì, esatto. O se no, a questo punto, per quest'anno si farà così e il prossimo anno si vedrà. Però nel frattempo voglio vedere l'imprenditore del sud come la metterà. Sì, ma certamente, infatti tutti coloro che sono ristoratori, albergatori, stabilimenti balneari del sud, col cavolo che non vogliono i turisti, per esempio. Notizia poco fa col bollino rosso, caro. No, anzi, importante, no, quindi notizia importante. No, eccolo qua. La Sardegna anticipa il passaporto sanitario con i voli privati. Vuoi andare in Sardegna? So, Berlusconi vuole andare in Sardegna, track, una copia originale di un certificato medico in lingua italiana o inglese che attesti l'effettuazione con esito negativo di un test diagnostico molecolare per rilevare il Covid, fatto non più di 5 giorni prima di partire. Così la Sardegna fa sapere che coloro che arrivano con i voli privati devono presentarsi così. Ne dà notizia l'Unione Sarda, capito? Sì, che l'altro giorno ho avuto la tentazione di fare anch'io il test sierologico. Adesso non so se hai visto qui a Milano, ci sono diverse vetrine che hanno messo l'insegna. negozi, ci sono dei negozi di test. Cioè, mi fa un caffè e il test sierologico. che ci sono diversi negozi, che te lo assicuro, vetrine, no, non sono negozi ovviamente, ma sono degli studi medici che hanno messo delle grandi, no, non sono farmacie, sono degli studi anche medici, che hanno messo delle grandi insegne che hanno scritto qui test da sierologico, noi, come le offerte un po' del 3x2. Test sierologico 3x2 in famiglia, io per esempio in tre, ma magari ci fanno un 3x2, no? E io sono stato molto tentato, adesso penso che andrò a farne anche più di una volta. Capito, perché, ma scusa, leggi qui, devi avere il test per andare tipo in Sardegna, fatto 5 giorni, non più di 5 giorni prima, cioè devi andare tra 5 sì. giorni in Sardegna. Ah. No, ma io voglio farlo per sapere se ho come degli anticorpi. Ah, ma non va, in Sardegna ci vado, non lo so, qualcuno mi ospiterà di nascosto. Ho degli amici in Sardegna, quelli che una volta quello che mi ha riempito la macchina sì. di carciofi, lui mi ospiterà giusto. In Sardegna. Ma sai che io ho chiamato per la casa, è tutto pieno. come tutto pieno, tutto pieno. Perché quest'estate cercano tutti di andare nelle case più che negli hotel. Ah, quindi ho capito, è per quello però, che non... cioè, vabbè. Luigi da Pisa, dai, sentiamo. Luigi da Pisa, che però mi dicono essere napoletano, che vive a Pisa. Buongiorno, buongiorno a te. Sì. Effettivamente sono napoletano, vivo in Toscana, a febbraio ero in Lombardia, a Mantova per l'estate. Sei fuggito? Non sono fuggito, il problema è uno solo. Allora, guarda, ascoltami. Tra parentesi, qualcuno dove sono andato a Mantova e poi è stato anche colpito dal virus. Il problema è uno solo, perché ora volete spostare tutto il focus sul problema nord-sud, quando anche il vostro vice direttore Barisoni, quando critica la gestione politica della Lombardia, viene aggredito dalle stesse persone che ora vogliono far sembrare che il problema sia la gente, non è la gente. No, infatti però, non è la gente certamente, però adesso un pochino si riversa sulle persone, cioè l'avrà sentito anche lei dire vieni dalla Lombardia, cioè se ci sono state delle responsabilità non è che deve, il Lombardo ne è vittima, anzi doppiamente vittima, no? Un'ultima cosa? Pronto? Sì, sì, allora, prego. Proprio una delle ultime partite che Napoli ha fatto al nord, per assurdo, è stata a Brescia, lo sai, no? E a Brescia, proprio i cori bresciani qual erano? Come se l'infezione era già arrivata in Campania, sì. Ci cantavano cori come se il virus doveva colpire solo la Campania. Quindi andiamo oltre queste cose, andiamo oltre, perché sennò... No, certo, certo. ...un'atmosfera ancora più cretina, permettimi di prima. A Luigi io sono assolutamente d'accordo, bisognerebbe superarlo, però dato di fatto che un pochino questa diffusione c'è. Allora, andiamo al traffico, poi Leonardo, abbiamo allora con noi il nostro City Angel di Como che ci passerà i due neosposini che si sono sposati, di cui tu hai raccontato la storia poco fa. Uno, nessuno, 100 Milan. Alessà, scusa, buongiorno, ma perché dicono tutti radio? Sono diventati tutti baresi. Perché non dicono radio? Cioè questa I love my radio, ma dai, è inglese, I love my radio. Beh, giusto, radio. Anche noi vogliamo essere un po' internazionali, no? Ho capito, non è barese I love my radio, I love my radio, se lo dici in inglese la dici tutta in inglese. Vabbè, Gianfranco Moretti, buongiorno Gianfranco. Ci siamo? No, non si ha. Anche lui è City Angels, vedi che stavamo entrando nella dimensione giusta. Gianfranco Moretti. E noi vogliamo collegarci con Gianfranco Moretti perché dovrebbe essere in compagnia. Gianfranco Moretti è coordinatore del City Angels a Como, amico dei due sposi, Silvia e Alessandro, la cui storia è stata raccontata poco fa dal nostro Leonardo Manera. Silvia e Alessandro sono due senza tetto, due clochard che si sono sposati dopo la frequentazione di vari anni sulle strade. E io ho detto che secondo me questa storia è molto onesta, nel senso che sono due persone che non hanno niente da fingere, no? Il tuo mantra, sentiamo un po'. Gianfranco, intanto ci siamo, Gianfranco Moretti, City Angel. Buongiorno a voi, ciao. Buongiorno, ciao, come va? Oggi è una giornata ventosa e fa freddino, ieri è l'estate piena, quindi questo è comodo, si presenta sempre in maniera diversa. Sì. Ma anche Milano si è abbassata la temperatura. Anche Milano. Va bene, allora. Poi tutte le città di lago hanno sempre un po' questo problema, no? Che si passa spesso da un clima. Il lago è un po' amaro a volte, ecco, lo dico da lacustre. Ecco. Va bene, va bene. Allora, Gianfranco, com'è che hai conosciuto Silvia Alessandro? Immagino come responsabile City Angels, no? Sì, io sono il coordinatore cittadino da 10 anni della sezione di Como. Faccio parte dei City Angels, che è un'associazione nata a Milano, in stazione centrale, 20 anni fa, che si occupa ovviamente di due aspetti. La sicurezza, quindi si collabora con le forze dell'ordine, nel senso che se si vedono situazioni che non ci piacciono avvisiamo le forze dell'ordine. E come solidarietà ovviamente ci rivolgiamo agli utenti, che per noi sono utenti, non sono barboni, non sono crociati, eccetera. Certo. Con un supporto che potrebbe, cioè che in genere è economico o di abbigliamento oppure di dialogo. Okay. E allora questa storia che tutti hanno trovato magnifica, cioè, sì. Credo che Silvia e Alessandro siano al tuo fianco, siano lì. Sono qua, sì. Vogliamo, io li ho conosciuti. Vuoi sentire nella... la loro voce, insomma. Come li hai conosciuti? Ce li ha passati forse, vediamo un po'. C'è, chi c'è? Silvia, chi c'è? Alessandro, pronto? Non c'è, sono già scappati. Probabilmente no? L'amore è già finito, inutile negarlo. Lo sapevo, non lo volevo dire io. Si sono già pentiti. Dire io. Si sono già pentiti dell'amore, no, del matrimonio, ma diciamo. No, tu sei veramente terribile, Leonardo. Cioè, no, dico, ma hai anche tu un cuore? Hanno visto quello che avrebbe comportato. Il cinismo, no, per carità, dell'artista. Dico, magari è... non sono perché il cinico. Allora, no, la differenza è che anch'io ho detto adesso faccio la battuta, ecco, si sono già separati. Ma tu subito, tu la devi dire proprio, no? Devi insistere su questo. Devo rimarcare, devo dire semplicemente la verità. Ecco. Ma no, io devi mi auguro la di verità. No, sì. Abbiamo recuperato. La linea telefonica è un po' balbettante, insomma. Gianfranco Moretti, c'è ancora? C'è ancora City Angels? No, niente. Sì, dammi il numero. Ecco, Gianfranco, eccoci qua. Sì. Gianfranco, eccoci qua. Sì, io ci allora, sono. Mi perfetto. Sposto perché non vorrei che... Vediamo, qui mi senti? No. Io benissimo ti sento. Non so, chi ci passi, bene. Silvia o Alessandro? In teoria ci vuole la precedenza alla donna, ne ho sposo. Ti passo Silvia, sì, ti passo Silvia. Va bene. Sì, ok. Silvia, allora, sei in diretta? Silvia! Eccoci, Silvia, buongiorno. Buongiorno. Beh, congratulazioni intanto. Cosa si dice a una neosposa? Congratulazioni. Sì. Grazie. Come va? Bene. Ma con Alessandro avete già fatto il primo litigio? Da marito e moglie? No, da marito e moglie no, da fidanzati sì. Vabbè, mi sembra giusto. Come siete arrivati a questa scelta? Così proprio un colpo di fulmine è stato oppure una conoscenza più lunga? No, per niente. Noi ci siamo conosciuti 10 anni fa, a febbraio, e lui mi ha guardato per 10 minuti senza dire neanche ciao. E quindi io l'ho evitato per 2 mesi perché pensavo che era un maleducato. Oh! Poi mi sono ritrovato poi? Un giorno che ho sovrappensiero di fronte e stava minacciando la pioggia, lui aveva un bello, me lo voleva per forza pestare. E io invece non volevo, gli ho detto di tutto, guarda, sto andando a casa, sto andando a prendere il bus, ma no, te lo prezzo. E poi per convincermi cosa mi dice? Guarda che non è mio, io l'ho visto 3 giorni sul muretto del tribunale, non l'ha preso nessuno, alla fine l'ho preso io. Vabbè, sono riuscita ad andarmene, però il giorno dopo l'ho trovato con il ragazzo che avevo ai tempi a parlare e da lì ho saputo tutto della sua vita, in poco più di un'ora. E dopo siamo diventati amici, ci siamo iniziati a parlare chiacchierando qui. Poi quando ho deciso di mollare lui... di mollare il mio ragazzo dei tempi, lui mi fa, visto che lasci lui, perché non ti metti con me? proprio così, proprio così. E da lì si è arrivato al matrimonio, al matrimonio. Beh, ma, no, da lì ha fatto la prima stupidata, perché neanche il tempo, ecco, di dire non sei non male, che mi ha messo la lingua in bocca. Così. Una cosa romantica, diciamo. Hai capito, Leonardo, hai capito. E lui fa, sai che ti potrei dare uno schiaffo? E lui mi risponde, ma almeno un bacio te l'ho dato. Oh, almeno aveva portato a casa, insomma, un bacio. Vabbè, ma insomma, sì, ma questi dieci... ma vogliamo sentire se c'è tuo marito da quelle parti? Sì, è qua, c'è, non mi lascia mai lui. Certo, mi sembra giusto. Vorrei sapere, grazie Silvia. Vorrei sapere, Alessandro. Pronto, buongiorno. Eccoci, io vorrei sapere, vorremmo sapere, io e Leonardo Manera, quando l'hai fissata per la prima volta per 10 minuti, che cosa pensavi? Cioè, perché la fissavi 10 minuti senza dire niente? Vabbè, io ero in compagnia che mi hanno chiamato degli amici, ho salutato gli amici, ma lei, non conoscendola, nessuno me l'ha presentata. A quel punto lì, se uno non ti presenta una persona, sei sempre su che va là, non sai come comportarti. Certo. E allora la fissavo, ma non gli parlavo. Però qui allora una donna direbbe risposta sbagliata, tu dovevi rispondere, l'ho guardata per 10 minuti perché ero colpito dalla sua immensa bellezza. Questa è la risposta che una donna, cioè, no? E non avevo il coraggio, ero senza parole per la bellezza che mi trovavo di fronte. Aspetta, però c'è un piccolo problema, perché... Sì. In quel momento lì non ci magari ti piace anche la persona, però nello stesso tempo non ci pensi alle parole giuste che dovresti dirgli. Ecco, già così va un po' meglio. No, ma sto scherzando. Io lo dico come la penso io, poi. Sì. Ma non lo so, è naturale che non vengano le parole. Quindi poi cosa avete fatto? Quindi le parole non venivano e niente, lei mi ha, in poche parole, mi allontanava. Per 3 mesi non ci siamo. Quando la vedevo, lei cambiava strada, mi evitava e tutto l'insieme. Fino a che è arrivato il giorno in via Sirtori, ci siamo trovati sul marciapiede e io. E lì. Dato che ero amico del suo ex, sì. Niente, non ho fatto niente di particolare. Pronto? Beh, insomma, oddio, qualcosa di particolare. Silvia ha detto che l'hai fatto. Sì, l'hai baciata in un impeto. Sì, l'ho baciata. Ma io vorrei capire una cosa. Non mi vergogno, anzi, lo rifarei ancora al giorno d'oggi, lo rifarei. Anche perché vi ha portato qui, insomma. Gianfranco, sui giornali raccontano la vostra, cioè ricordiamo Silvia e Alessandro sono due senza tetto di Como, raccontano questa come la favola, la bella storia. Voi come la raccontereste la vostra storia? Come una favola oppure una notizia come l'altra? È nata da niente. Va bene, io non ho un bellissimo carattere perché sono un po' estroverso, però c'è questo: lei è riuscita a sopportarmi 10 anni, io sono riuscito a sopportare lei 10 anni perché non ha un bellissimo caratterino, no, l'ho detto chiaro, però l'unione fa la forza, dice il proverbio. Insomma, hai capito, Leonardo? Siamo riusciti a arrivare a... Ci abbiamo messo 10 anni, però siamo riusciti a arrivare dove volevamo arrivare. E adesso migliorerà meglio la situazione. Ma possiamo chiedere se continuerete... Adesso. Sì, continuerete a vivere... Perché se ho capito, quella di Silvia è stata una scelta di vita. Quella di vivere, mentre se ho capito bene la tua no, è una situazione nella quale ti sei trovato. Allora, io ero già sposato con una ragazza del lago, abbiamo divorziato e i suoi genitori, i genitori di Silvia, non, al momento non mi hanno accettato bene, perché io sono arrivato su a casa assieme a Silvia. Sì. E è successa questa la storia, che i suoi genitori, ma cosa fai, cosa non fai, se le solite polemiche dei genitori, quello è normale. Però gli ho detto, io sono senza lavoro, senza una casa, voglio bene a sua figlia, e così gli ho risposto, onestamente, soltanto. E loro mi hanno risposto, ma tu c'hai, sei già sposato? Sì, sto aspettando il divorzio, gli ho detto. Infatti il documento del divorzio c'era su mia suocera a casa. Sì, sì, cioè nel senso, Leonardo, questo è cosiddetto, viene definito dai giornali, il trionfo dell'amore. So che tu, Leonardo, sei molto scettico. Sappiamo sempre che l'amore finisce sempre, comunque. No, sempre, però invece comunque, magari in questo caso durerà. Voi siete ottimisti riguardo alla durata del matrimonio o già ipotizzate che insomma avrà poco fiato questo matrimonio, come la vedete? No, il ragionamento è questo. Io con Silvia sto facendo dei passi, sto vedendo delle valutazioni e tutto l'insieme per poter migliorare la nostra situazione. Se c'è qualcuno che ci dà una mano, ben venga. Se qualcuno non ci vuole dare una mano, allora è una loro scelta, non è che blocchiamo persone o fermiamo facciamo così, visto che anche le campane stanno festeggiando questa unione, stanno suonando le campane, infatti vedi, stanno manco a farla apposta. Silvia e Alessandro, tanti auguri per una lunga vita insieme. Ringraziamo anche Gianfranco Moretti e ringraziamo ci abbiamo aggiunto anche le campane da studio. Ringraziamo anche Gianfranco Moretti dei City Angels. Sono un preludio alla migliore sigla di Radio 24, queste campane, Leonardo, la vuoi? Io guarda, la sostituirei, invece di quella vera metterei questa che è già meno invadente. C'è delle borse. Sì, sì. No, ma ti prego, continua, insisti, vai avanti un mezz'oretta così, Peter Bescapè, poi dopo quando ti incrocio la prima volta in radio vediamo come la sistemiamo. Va bene, dai, andiamo a sentire la borsa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta 1, nessuno, 100 Milan. Altro che Milan Zetung, ti chiameranno Milan Terun. Mamma mia, ragazzi, che casino. Leo vive con così tanta amarezza la vita che butta la ciliegia e mangia il nocciolo. Uè ragazzi, ma qual è il problema? Non possiamo andare in Sicilia, in campagna, in Sardegna perché non ci vogliono? Venite qua a Limone sul Garda, che ci sono un sacco di tavoli liberi, e passiamo l'estate qua insieme. Ciao! Eccola lì. Leonardo, mi dia 2 chili di noccioli di ciliegia. È bella quella battuta, ringrazio il mio ascoltatore preferito, devo dire, che ogni tanto ci manda messaggi. Allora, ma infatti allora, io li conservo tutti i noccioli. Sì. Allora, adesso però c'è un momento politico importante, perché sono sfuggite all'orizzonte politico, ma sono tornate le sardine. Ve le ricordate le sardine? Sembra passato un'era geologica, invece sono passati pochi mesi. Certo, il divieto di assembramento ha limitato la possibilità delle sardine di trovarsi, ma noi sapete che abbiamo una sardina che ogni tanto viene a trovarci, Elenio Mariotti, che saluto. Buongiorno Elenio, sardina, come la devo chiamare? Elenio, buongiorno. Mi chiami Elenio perché Elenio, cioè, nome comunichiamo, no? Cioè, l'importante è comunicare comunque. Penso che, cioè, con educazione È l'importante, cioè, per noi la politica è educazione, no? E non so se... Cioè, quando andavamo in piazza, per esempio, non andavamo mai a mani vuote. Cioè, porti una bottiglia di vino, un dolce, una, una piantina. Ma se sei ospite della piazza, devi portare qualcosa anche in piazza. È una questione di educazione. Cioè, non è che io vado in piazza così a mani vuote. Vado, la piazza mi accoglie e io porto in piazza, una piantina, un dolce. Perché le sardine sono tutte educate. Dolce alla piazza. Ecco, sì, ci siamo presi una pausa di riflessione. Ecco, appunto, diciamo così, appunto, Elenio. Una pausa, avrei qualche domanda. Sì, lascia stare che le pause. Appunto, vi siete presi una pausa di riflessione come movimento? Ma sì, perché diciamo che lasciarsi direttamente era troppo brutale, era maleducato. Cioè, non è che da un giorno all'altro non ti parli più, cioè, capito, no? Prendi una pausa di riflessione anche in politica, come succede tra uomo e donna, c'è bisogno di pensare e ho bisogno di prendermi una pausa. Che e così abbiamo fatto... Ma però... qua poi con educazione si può anche fare, sì, però anche noi in politica ci prendiamo una pausa, prima, no? Abbiamo fatto così momentaneamente. Sì, quindi pausa, è un addio con educazione. Sì, ho capito, con educazione. Sì, si può anche prendere senza educazione, ma è un addio questo, dobbiamo considerarlo un addio. Ma no. Cioè, non so se mi sembra di essere stato abbastanza chiaro, no? Cioè, come ho già detto, non vogliamo lasciarci, ci prendiamo una pausa di riflessione per vedere se ci manchiamo, per capire se stiamo insieme solo per abitudine o se abbiamo ancora qualcosa da dirci. Cioè, io ti tengo, posso dire una cosa alla quale tengo molto? Vediamo. Cioè, io ci tengo molto a dire che non siete voi, siamo noi. Cioè, non siete voi, siamo noi. Sì, e lui è lui. Hai capito? Cioè, penso di essere stato abbastanza chiaro. No, non ho capito. Cioè, siamo noi, una parola è troppa e due sono poche, no? Cioè, siamo noi che non vi meritiamo, siete troppo per noi, siete le persone giuste voi, nel momento sbagliato. Senta, cioè, questa cosa fa più male esclusivo a noi che a voi. Comunque possiamo rimanere amici, cioè in piazza, con le piantine, con educazione. Cioè, senta, ma non è che banalmente il problema, cioè, le ossa, mi lasci queste... dire, cioè, vorrei spiegarmi con un'immagine, no? Vediamo. Cioè, le ossa sono comunque dentro il corpo, no? Hai capito? Fortunatamente, sì. E quindi, cioè, penso di essere stato chiaro, cioè, anche se non le vedi, le ossa... Ci sono. Ma, cioè... E allora c'è anche la sardina, anche se non la vedi nella piazza. Cioè, se te non hai l'occhio di vedere, ecco, il per esempio, il metatarso. Cioè, metatarso. No, senta. Sì. Ma io ma scusa adesso, lasciamo stare cioè, l'anatomia. Se te non hai l'occhio di capire che dentro il piede c'è il metatarso, anche se non lo vedi. Ma te prova a vivere col piede senza metatarso, poi vedi quello che succede. E così ma è così, non è che banalmente noi siamo il metatarso dello stivale chiamato Italia, anche se in questo momento siamo meno visibili, capito? Semplicemente ci sono state le regole antiassembramento. Questo quello è stato il problema, no? Io voglio dire una cosa, quando fai una torta salata, basta non metterci dentro, l'uovo e dura di più, no? Cioè, al limite la tieni in frigo, giusto, se non ci metti l'uovo. Scade 2 giorni. E lei sta lì per già... Ma l'errore qual è? È che tu vuoi la torta salata con dentro l'uovo. Aspetta, e lei sta lì per giorni, se tu non ci metti l'uovo aspetta di essere mangiata fetta dopo fetta senza protesto, con pazienza. Ho delle domande un po' più decise. Ma in cosa credete prima di tutto? Cioè, le sardine, poi ognuno è libero credo di metterci l'uovo, se lei vuole l'uovo, lo può mettere l'uovo nella torta salata. Sì, ma voi sardine, ma guarda, cosa credete? Le maniglie senza porte non si aprono, hai capito? Cioè, ci vuole la maniglia per la porta, anche se ce l'hai scorrevole, cioè, la maniglia deve avere, sennò comunque fai fatica, devi star lì con le unghie e tirarla fuori. Credete nelle maniglie, quindi Vabbè, ci dica almeno questo, no? Perché oggi ho letto qualcosa, anche sì. Il vostro leader Santori, fate un partito, allora è vero, questo ce lo dica, una notizia almeno, è vero che volete fare un partito, sì o no? Vabbè, questa non è mica una domanda educata. Cioè, voglio rispondere voglio rispondere chiaramente che la vita è come una lavagna. La vita è come una lavagna. E per scrivere deve avere i gessetti. Qualche gessetto si rompe subito perché cade appena lo tocchi. Qualche altro gessetto finisce in fondo alla scatola e non lo trovi più. Allora, ma l'importante è avere abbastanza gessetti. Abbiamo il gessetto. Perché se non hai il gessetto, come fai a scrivere sulla lavagna? Sulla lavagna c'è scritto facciamo un partito, sì o no? Lei ha il gessetto in mano. Lei ha il gessetto. Allora, cosa scrive? Senza gessetto non puoi scrivere sulla lavagna. No, ce l'ha il gessetto, ce l'ha il gessetto. Allora, questo è quello che penso. Credo di parlare a nome di tutti se dico anche che per pulire la polvere di gesso non basta usare lo Scottex bagnato. Cioè, sono stato forse un po' troppo diretto in questo caso, mi scuso, sono stato anche un po' maleducato, ma è il momento di dire le cose con chiarezza. Come stanno? Quindi penso di essere stato abbastanza chiaro. Perché e anche con bontà, perché quando c'è la bontà i fiori sbocciano meglio, puoi anche non innaffiarli spesso. Basta che gli sorridi ai fiori con educazione e con rispetto. Sì. Quindi penso di aver parlato chiaramente a tutti. Chiarissimo. Avrei un'ultima domanda, posso? Le chiederei un giudizio politico. Secondo voi le sardine, il governo come ha gestito la situazione coronavirus? Ma io mi ricordo che da bambino andavo in garage con mio nonno. Lui prendeva un pezzo di legno, mi dava in mano un martello e io passavo pomeriggi interi a piantare dei chiodi. Adesso è arrivato il momento di chiedersi se è giusto piantare i chiodi nel legno quando poi non si appende neanche un quadro. Cioè il chiodo è immobile, aspetta di essere colpito dal martello, ma la colpa non è mica solo del martello. Dobbiamo essere consapevoli che è anche un po' colpa nostra se prendiamo un martello e picchiamo un chiodo nel legno. È questione di educazione. Ma noi siamo il legno, il martello, il chiodo, non ho capito. Ma, uno deve sapersi fare qualche volta legno e qualche volta martello. E anche chiodo. A proposito di chiodo, avrei un'idea adesso. Vabbè, niente. Spero di non essere stato troppo esplicito, anzi chiedo scusa se ho alzato i toni. Ho alzato un po' i toni. Tom, però mi sono prestato a un'intervista un po' invadente, l'app ci abbandona anche di questo collegamento, signor Elenio. Io sono un po', non lo so, credo basito un po' come tanti ascoltatori, però signor Elenio, grazie di essere stato qui. C'è sempre l'app che non va bene, deve ricollegare, guardi, a volte mai guasto dell'app fu più opportuno, si potrebbe dire. I tappeti sbattuti di tanto in tanto, no? I tappeti sbattuti, ma non col battipanni che poi si rovina la trama e l'ordito, vanno sbattuti con educazione. E noi, cioè, il governo è la trama, è il tappeto. Bisogna qualche volta farsi trama, qualche volta polvere. Ordito, qualche volta polvere, qualche volta bello. Anche polvere, bello. Ma lei sta qui. Mi dispiace che lei non è educato per niente. Cioè lo trovo mi sono armato di estrema pazienza, devo dire, signore Elenio. Perché se posso dare un consiglio, magari qualche risposta un po' più ficcante, maleducata ci vorrebbe ogni tanto. Lei sa che in ogni domanda è già contenuta la risposta. Se lei non è in grado di coglierla, allora forse non è un problema delle sardine. Lo dico con educazione. Lei è un po' maleducato adesso. Lei è un po' maleducato adesso. Me ne scuso e me ne dolgo profondamente, me ne dolgo. Se ne dolga. La salutiamo, signor Mariotti, signor Elenio, la salutiamo, vada un po' a dolersene per questa sua maleducazione. Me ne dolgo profondamente. Va bene, la ringraziamo. Saluto tutti gli ascoltatori, arrivederci. Grazie, viva le sardine, traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Dopo la sardina sentiamo Giorgio da Codogno, la Codogno tanto famosa. Giorgio, buongiorno. buongiorno. Mi scusi se mi scappa da ridere, però io sono nato Codogno, residente Codogno, con casa in Sardegna. Ah, proprio ce le ha tutte. E lei è il caso perfetto. Lei è il caso perfetto. Immagino, sono davvero il caso perfetto. Casa, intanto come va? Cioè, perché a Codogno adesso si ride, ma insomma, abbiamo imparato che Codogno è stato il primo paese colpito e blindato. Va meglio? Sentiamo almeno nello spirito, mi sembra di sì, Giorgio. Direi di sì, perché comunque ovvio la tragedia c'è stata, però comunque bisogna tornare a vivere. Non c'è soluzione, cioè, per poter non morire bisogna vivere. E quindi questa tragedia che comunque ci ha colpito, perché anche noi abbiamo perso degli amici, eccetera, però ci deve portare anche ad avere almeno qualche positività, ad essere anche un pochettino più ottimisti, altrimenti... Ma come fa Giorgio ad andare in Sardegna? L'ha capito, c'ha casa lì e quindi... C'ho la casa, sì, è 10 anni che c'ho la casa in Sardegna. Non lo so, ma infatti mi scappa da ridere, perché ci sarà... Il problema è che se salirò su un aereo e vengono a sapere che c'è su uno di Codogno, probabilmente c'è o chi chiede l'autografo, perché ho successo no, anche gente che quando ha saputo... No, non scherzo, no, dai, non ci credo. C'è gente che quando ha saputo che era l'autografo di uno di Codogno. No, ma non autografo, adesso è esagerato, ma che comunque erano molto interessati al fatto che comunque si era di Codogno perché siamo diventati famosi. E altrimenti la possibilità è che qualcuno, quando sa di Codogno, voglia aprire lo sportellone e buttarci giù. Cioè, adesso io rido, ma in effetti questa situazione è alquanto, non so, complicata per chi vorrà complicata, come me andare in Sardegna. Se si è capito, al momento, ripeto, notizie di oggi è che la Sardegna dice anche chi arriva con un jet privato, quindi proprio tutti bisogna presentare un certificato di un test fatto nei 5 giorni antecedenti il viaggio. Dopodiché, sa, il governo dice che tutto ciò è anticostituzionale e questo è diventato uno scontro politico. Adesso ci terranno in mallo l'autonomia della regione Sardegna, chi ha ragione. Insomma, è uno scontro politico e istituzionale. In tutto questo c'è l'incertezza effettivamente dei cittadini. Giorgio, la ringraziamo veramente, in bocca al lupo. Andrea Napoli da Ernesto. Ernesto. Ciao, bello. Ciao. Pronto? Bello. Adesso non tutti condividerebbero questo bello, però vabbè, ma perché? Si fa quel che si può. Oh, bello dentro. Vai Ernesto. Bello dentro, sai come rispose? Mamma, ma i mica sono un guanto che mi posso rovesciare. Bella, questa me la giocherò. Vai Ernesto. Allora, prima di tutto un saluto a te e a quel simpaticone di Leonardo. Sì, che Leonardo oggi ci ha lasciato qualche minuto prima, cioè ci doveva lasciare. Ma glielo portiamo, io lo trovo simpaticissimo. Lo so. E glielo puoi riferire, dice c'è un napoletano che ti ritiene simpaticissimo, che per uno come lui deve essere un complimento. Giusto. Poi veniamo al fatto. Sì. Io, premesso che Milano è una delle mie città preferite per motivi sentimentali, è che mi piace moltissimo. Secondo me Milano è l'unica città europea d'Italia. Vabbè, ma adesso a parte. Il problema qual è? È che noi non ce l'abbiamo mica con i lombardi, i quali fra l'altro per metà sono meridionali. Ce l'abbiamo con la dirigenza politica. I lombardi sono vittime, ma allo stesso tempo sono responsabili. Perché sono loro che hanno votato arbitrariamente questa gente. Ma adesso Ernesto, scusa, adesso tutti abbiamo, almeno dagli ascoltatori, accertato che sono stati fatti degli errori. Io non sto dicendo di no, sto dicendo che non lo so, perché è facile giudicare. Prendi i malati di coronavirus e li manda nelle residenze degli anziani, lo so che sta facendo una strage, perché non ci sono errori? Ci sono errori, e anche gravi, però gli errori li ha fatti la dirigenza politica, mica l'hanno fatti i milanesi. Sì. Cioè, secondo te hanno fatto degli errori che hanno contribuito a diffondere il virus? Certamente, sono sotto gli occhi di tutti. Passaggi dei vecchietti, io sono interessato perché faccio parte della categoria, perché ho 89 anni. 89? Quindi, ma come 89? Me ne dimostri 58, 59? Io ho 89 anni, sono del 1931, amico mio. Mi sono fatto tutto il fascismo della guerra. Ma è stupendo. Io, Ernesto, adesso devo chiudere perché c'è la sigla, ma 89 anni, dobbiamo tenerci il numero di Ernesto e farci due telefonate un'altra volta, la prossima volta quando c'è Manera. Facciamo così, mi devo fermare, ma Ernesto, ci teniamo il numero, 89 anni. Beh, io, ragazzi, sono stupito, anzi mi faccio un passo indietro e comincio a dare del lei e del voi, perché 89 anni, per la forma di rispetto, ti ho dato del tu perché mi sembravi un coetaneo. Vabbè. Allora, grazie Ernesto, con te concludiamo questa trasmissione, anzi con voi concludiamo questa trasmissione, e questa settimana saluti anche da Leonardo Manera che ci ha lasciato qualche minuto fa e pochi minuti prima. Un abbraccio a tutti quanti, passate un buon weekend e ci ritroviamo lunedì. Dal 3 giugno si potrà viaggiare? Boh, chi lo sa.